Benvenuti su Cinema Virale. Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata di Cinema Virale, il cinema e la morte al lavoro. E parleremo effettivamente un po' di morte, cambiamenti. Sono tornata con Gianmarco Basta dopo l'incursione di mia madre su questo format. E insomma, Gianmarco, oggi parleremo di un argomento che potrebbe portarci addosso un po' di odio e comunque qualcosa, diciamo, non a favore delle nostre argomentazioni, ma noi siamo pronti, direi. Non vediamo l'ora. Allora, oggi vorrei parlare con te di un argomento legato al concetto di contestualizzazione storica. Allora, noi oggi ci troviamo in un momento in cui, dopo i movimenti del Black Lives Matter e dopo la, diciamo, l'incremento dei movimenti LGBTQI+, ci troviamo di fronte a un momento storico in cui stiamo un po' facendo i conti con le nostre azioni passate, con la letteratura e la cultura del passato e ciò che sono i valori del presente. Quindi ci siamo trovati davanti a vari film, libri, dipinti di epoche passate che ovviamente non rispecchiano più quelli che sono i valori odierni. Il problema è che l'azione che stiamo compiendo la maggior parte delle volte per avere un rapporto con queste figure del passato è quello di eliminarle, quindi di praticare una damnatio memoriae molto, molto forte. E quindi un po' quando vennero censurati i nudi di Michelangelo nella Cappella Sistina. Quindi ti chiedo, secondo te è giusto ed è doveroso in questo momento reinserire il concetto di contestualizzazione storica? È fondamentale nella misura in cui, se uno non va a guardare in maniera forse per un momento raffreddando un tipo di sensazione, lavorando meno di pancia, ma più a livello analitico scientifico, è necessario contestualizzare per definire quello che è successo, quello che è accaduto e perché è successo e perché è accaduto. Se in via del col vento la mami aveva delle caratteristiche che uno può definire agli occhi di un uomo, una donna del 2020 come una caricatura di come vedevano, ma come vedevano e non come vedono, una caricatura di come vedevano nei primi del Novecento i neri d'America, e WASP, dice così, WASP, si vede che ve ne intendo. Ecco, voi per i B2, per altri motivi che adesso non vado a definire perché sono cose personali, si cade in un boomerang molto grave a livello di situazione, perché si rischia di fare della demagogia in maniera molto forte e sgradevole. Demagogia unita alla dietrologia, cioè giudicare a posteriori quello che è successo allora. Ma il cinema non è una scienza, non è un tipo di ragionamento teologico, cioè c'ha un fine. Il cinema è la morte al lavoro. Il cinema racconta e descrive quel momento con una precisione maggiore rispetto a una fotografia familiare, una foto di gruppo. Perché dico questo? Perché nella foto di gruppo ci sono dei sorrisi di circostanza, si è obbligati a simulare qualcosa. Quante coppie che si sfasciano di lì a qualche giorno, il giorno prima, beh, ma sembravano così allegri. Il cinema, in quanto arte, con la maiuscola, pur non andando a raccontare il periodo storico, perché del resto un regista, un film, non ha alcun tipo di necessità e obbligo di raccontare quello che sta accadendo, comunque lo racconta, perché sia perché ha a che fare con una sorta di, definiamo, inconscio collettivo che porta a radicalizzare alcune informazioni che hanno a che fare col tempo passato e col tempo presente, ma soprattutto il cinema è industria. Per un attimo scordiamo l'idea del cinema come arte. Il cinema è una situazione come di industria. Il cinema americano molto, molto spesso è stato definito una sorta di catena di montaggio, Paramount. Allora, quanti film facciamo quest'anno? Quanti western? 15. Quanti film noir? 10, 15. Che abbiamo come registi? Tot. Beh, allora diamo e devono fare i film entro un mese e mezzo, due mesi. Quindi, oltre alle persone che ci lavorano, anche il film riflette, non può fare altrimenti che riflettere perfettamente, precisamente quel contesto, perché non è l'invenzione creata nella cosiddetta, no, torre d'avorio di qualcuno che non ha a che fare con la realtà, ed è industria. E industria certo che ha a che fare con l'arte nel momento in cui vuole avere a che fare con l'arte, cioè racconta qualcosa che va al di là del genere, no, cinematografico, e poi rimane per tanto tempo, rimane nei cuori della gente che lo trasmettono anche ai figli e poi ai nipoti. Per questo motivo Via col vento è un film eterno che non verrà mai e poi mai scalfito da queste ridicole insinuazioni assurde fatte poi da chi? Di solito da persone che non solo non hanno mai visto quel film, ma non si rendono conto del significato della parola analisi. Esattamente, cioè, hai citato un esempio molto lampante, che se ci pensiamo in un modo concreto, Via col vento è stato il primo film che poi ha dato il via a tutta questa catena di damnatio memorie che stiamo avendo adesso. Tutto è nato quest'estate dalla scelta di cancellare temporaneamente Via col vento per inserire un disclaimer che spiegasse poi il contesto storico. Una cosa che mi viene da dire, ora cito una critica americana, afroamericana, che si chiama Angelica Jade Bastienne, che scrisse riguardo a Via col vento, dicendo che un film come Via col vento, se dovesse essere cancellato e se fossero proposti al cinema solo film tipo 12 anni schiavo, che mostrano la parte estrema delle violenze, delle vessazioni, dello schiavismo, la popolazione non ci si potrebbe più riconoscere, perché potrebbe dire: queste sono cose estreme che succedevano tempo fa. Mentre nella Mami, nella figura della Mami e in come vengono trattati i neri in Via col vento, noi ancora oggi ci possiamo riconoscere, perché la cameriera, che sia di colore, filippina o tutto quanto, c'è ancora nelle famiglie altoborghesi. Esatto. Quindi l'analisi viene caricaturizzata molto spesso. Esatto, cioè l'analisi della Bastiana è molto acuta, perché dice: se voi mi togliete Via col vento o me lo contestualizzate in questo modo, non date nemmeno la possibilità allo spettatore di dire: cazzo, queste cose succedono ancora. Perché è chiaro che davanti a 12 anni schiavo dici: erano vessazioni estreme, le piantagioni di cotone non ci sono più, ma è qualcosa del passato, quando in realtà no, è qualcosa di ancora eccessivamente presente. Quindi, e qui non sto dicendo di eliminare 12 anni schiavo, sono due film che devono andare a braccetto, come si può dire per Il colore viola, oppure un'altra discussione c'è stata per il film di Help, perché si diceva che The Help, quello con Viola Davis, si diceva che la protagonista Viola Davis arrivasse, diciamo, a diventare scrittrice e quindi a poter raccontare la propria storia solo perché c'era l'intermezzo di Skelter, che è interpretata da Emma Stone, quindi di una persona bianca, ma in un film ambientato negli anni 60 in America era inevitabile che per dar voce a una persona di colore dietro ci dovesse essere l'influenza di una bianca, ma perché la struttura sociale era quella. Non è assolutamente un voler buttare schifo sulla comunità afroamericana, ovviamente parliamo anche qui di contesto storico, ovviamente. E la stessa cosa si dice per, ora stiamo vedendo tanti esempi, Netflix che produce delle serie web o televisive, dato che poi le possiamo vedere anche sul televisore, ovviamente, traendole da l'Iliade di Omero, piazzandoci un Achille di colore, e in quel caso non siamo liberi di dire nulla, e non perché ce l'ho con l'attore o perché la mia è una forma di razzismo. Io sono stata molto incazzata anche quando ho visto Brad Pitt interpretare Achille, intendiamoci, in Troy. Quello è razzismo. Quello è razzismo, cioè veramente la figura di Brad Pitt che interpreta Achille è stata una cosa agghiacciante. Però allo stesso tempo viviamo in un momento in cui non si capisce bene questa storizzazione dove voglia andare, cioè eliminazione totale o spiegazione, cioè cosa dobbiamo fare noi di questa storia? E la cosa che mi fa più paura è che se ci dovesse essere un'eliminazione, quindi anche un venir meno del pensiero critico, i ragazzi futuri come si approcceranno al futuro stesso se non c'è più passato, secondo te? Non è possibile approcciarsi al futuro stesso, ma anche al tempo presente. Io non riesco a pensare che tutta questa situazione sia anche una forma di macchinazione, di ragionamento costruito ad hoc per fare sì di trovarsi di fronte a generazioni che hanno, non per responsabilità propria, perché i giovani sono sempre innocenti, i giovani, i ragazzi, i colpevoli sono i padri, i colpevoli sono quelli che hanno scelto, hanno organizzato e hanno gestito e hanno fatto sì volutamente che ci fosse sempre meno informazione. Se tu tagli le radici di una pianta piccola potrebbe darsi anche che riesci a gestire e non crolla immediatamente, ma dopo un po' fidati che cade giù. Ma un tronco secolare senza radici lo vedi enorme, no, nel tempo presente, perché se la pianta, l'albero, il tronco, il tempo presente, tutto quello che è lì sotto e che non vediamo sono le radici, cioè il passato al quale si lega per rimanere su quest'albero. E se questi ragazzi non hanno questo tipo di visione, ma non lungimirante, minima, io dico minima, non proiettata nel futuro, anche se è chiaro che più ti relazioni al passato e più puoi prevedere il futuro, lo dicevano anche gli aruspici romani, che simulavano di vedere nell'interiore degli animali quello che sarebbe successo a Giulio Cesare alle Idi di marzo. Non accadeva così, semplicemente lavoravano con le informazioni, i cosiddetti input che avevano, e poi da quello proponevano quello che secondo loro sarebbe stato, spesso indovinandoci, no? Indovini aruspici. Ci indovinavano però, cioè nel senso era un indovinare. Non è che se uno ha delle informazioni poi c'è la certezza che quello che hai organizzato, hai strutturato, hai addizionato, sottratto, diviso e moltiplicato ti porta a quel risultato. Però è molto più probabile che capiti. Ma se i ragazzi non possono avere queste informazioni del passato perché c'è una controcultura che impone di cancellare quello che è vecchio, too old, too much old, l'esaltazione del giovane, il giovane all'infinito, il giovane che è più importante del vecchio a priori, e poi a seconda delle generazioni e a seconda anche del luogo dove ti trovi, hai capito? Quindi dello spazio e del tempo, il diventare grandi cambia di età, e anche il diventare grandi può diventare o positivo o negativo, e quindi può succedere che, come avviene evidentemente nel nostro mondo, che è quello della cultura occidentale, ora passa volutamente, anche dettata dal fatto del rendiconto economico legato al fatto che chi spende sono ragazzi sempre più giovani. Basti pensare alla questione legata alla musica, che sempre di più sta diventando una forma di pedofilia musicale. Non è il termine pedofilia musicale mio, non è un'esasperazione di quello che sta accadendo, non è mia, ma è di Ivano Fossati, che raccontava circa 15 anni fa che una musica che diventa sempre più bambina diventa Zecchino d'Oro. E Zecchino d'Oro chiaramente non può portare, può portare dei valori anche più o meno universali, però a misura di bambino. Ecco che si crea poi il cortocircuito quando sai che chi guarda, che chi osserva, che chi ascolta la musica sono molto giovani, sono molto giovani, e quindi non si fa più un prodotto per portare avanti una generazione, per accrescere un livello culturale, come poteva capitare secondo me nel periodo dei cantautori, della controcultura che veniva comunque dagli Stati Uniti dagli anni 60 in poi. Qui le industrie cinematografiche, musicali, discografiche, volevo dire, ricercano, e secondo me anche quelle cinematografiche, in fin dei conti, tagliamo la testa al toro, quando si fanno un overdose di film legati ai supereroi, non penso che tutti quanti siano dei film che escono fuori per un pubblico totale, ma che guardi un pubblico molto molto giovanile. E poi lo si vede spesso quando c'è la dicotomia bene e male, che tra l'altro è la cosa più grave che si possa proporre a un ragazzo, perché nel costruire il sistema binario 0101, cioè bianco e nero, bene e male, già allevi un giovane a cercare qualcosa che per forza di cose sarà il bene assoluto, e qualcosa che, lo dicono tutti, sarà qualcosa di negativo e sarà il male assoluto, qualcosa da denigrare. E allora a chi stiamo dando in pasto queste generazioni? Stiamo dando in pasto questi ragazzi, io ne so qualcosa in quanto professore, al vuoto, al nulla, quando si parla del nulla, no, nel film La Storia Infinita, mi pare, è molto simile a quello che sta accadendo adesso, esaltando il fatto che il giovane ha il potere in mano, avendo la possibilità di usare il telefono come se fosse la lampada di Aladino, e ripeto, la lampada di Aladino arriverà dappertutto, sì, ma quel dappertutto non siamo certi che sia né di primo pelo né che abbia una valenza oggettiva, anzi molto spesso è soggettivato dal fatto di chi ha il sito e di quello che chi ha il sito vuole proporre. E quindi il disastro, perché il disastro si tratta, è quello di una cultura umanistica che viene H24 colpita ai fianchi, e come si racconta nella box, con dei cazzotti sotto la cintura, non da ambi i lati, ma dappertutto, a 360 gradi, raccontando ai ragazzi la fandonia: the world is yours. Detto così in inglese molto alternativo, il mondo è tuo, il mondo è tuo, e quelli che c'erano prima, chi se ne frega, è una cosa vecchia, ma è quello che c'era prima che fa sì che tu hai due gambe e ragioni con la tua testa. E allora, che facciamo di quello che c'era prima? E che ne facciamo? Lasciamolo a quelli un po' più grandi. Questo comporta, e qui concludo, la grande difficoltà comunicativa. Io appartengo alla classe dell'82 e riesco a relazionarmi molto di più con persone che precedenti alla mia data di nascita e antecedenti al, diciamo, al 2000-2001, i cosiddetti millennials, ma non perché io indico a dito, io non ho alcuna forma di, non è un mio atteggiamento denigratorio, è un atteggiamento oggettivo, analitico. Io analizzo quello che c'è. È passato e sta continuando a passare questa cattiva informazione che ha a che fare, che il tempo presente è l'unico tempo importante, è l'unico tempo che c'è, perché è il tempo dove tu puoi spendere. È anche un ragionamento molto legato a un'idea dei valori borghesi, dell'aspetto economico. Ma scusa, che te ne frega di scrivere una canzone che dura 6 minuti quando lo standard è 1:30 con 7 volte il ritornello, hai capito? Idem per quanto riguarda il cinema, idem per quanto riguarda la possibilità di contestualizzare o meno i film. Ma perché contestualizzarli se ti raccontano che se tu tratti un argomento, tu regista, tu film, tu canzone, tu autore tratti questo argomento in un certo modo che non appartiene al politically correct, che non dimentichiamoci ha sempre a che fare col tempo e lo spazio, col momento storico e dov'è che sta vivendo, perché sta vivendo, perché certamente il politically correct di Kabul sarà diverso rispetto al politically correct di Trump, ma fino a un certo punto. Che poi una un'affermazione che mi viene da fare riguardante al concetto di passato, presente e futuro è che in un certo senso il presente non esiste, perché questo presente diventerà passato molto presto. Quindi allora che facciamo? Vuol dire che non esistiamo? C'è un'analisi molto, molto bella che viene fatta partendo dalla filosofia di Heidegger al contesto cinematografico, soprattutto allo scorrere della pellicola, no? I famosi 24 fotogrammi al secondo. Obiettivamente, ogni volta che durante i secondi cambia un fotogramma, viene distrutto il precedente. Non è una sola immagine che vediamo, sono più immagini che si distruggono. Il cinema è la morte al lavoro, per l'appunto. In questo senso, il cinema non può essere l'arte del presente, perché il presente non esiste, viene subito bruciato da un'azione futura e da un'opzione passata, perché puoi tornare indietro facendo rewind. Quindi, se voi mi scegliete il cinema per ad adenaptio memoria, avete prima di tutto scelto il media sbagliato. In primis, continuando la nostra discussione, un'altra, abbiamo parlato anche della comunità LGBTQI+, e di tipo due giorni fa la questione riguardante il film Grease, un musical super gettonato del 1978 che ha fatto esplodere la carriera di John Travolta, tutto quanto. Ed è un film che obiettivamente tutti noi abbiamo visto con grande allegria durante l'estate, quando ce lo propinavano su ogni tipo di canale. Fare con la spensieratezza. Esatto. E alcuni utenti Twitter si sono trovati davanti a questo film ritenendolo misogino, razzista e soprattutto contrario e contro la comunità LGBTQI+. Perché? Perché non c'è un personaggio nero, perché vengono scimmiotati gli omosessuali, perché c'è una scena in cui quando cantano Summer Nights, una delle canzoni più famose del musical, John Travolta si mette sotto le panche della palestra all'aperto per guardare sotto le gonne a ruota delle ragazze, e quindi misoginia, razzismo e tutto quanto. In realtà, come disse la stessa Olivia Newton-John in un'intervista di tipo un anno fa, Grease si limita ad essere un film giocoso che gioca ed estremizza alcuni stereotipi, lo stereotipo del maschietto adolescente che appena vede una caviglia si arrapa e lo stereotipo del ragazzino più bullizzato a scuola, perché per quanto ora, per fortuna dico, viviamo in un contesto in cui la sessualità diventa sempre di più un argomento super accettato, cioè vedo ragazzi che già a 13 anni hanno il loro orientamento sessuale ben chiaro, ben definito, e che non hanno nemmeno paura. Beati loro, perché io non ce l'ho ancora adesso. Perfetto. Che hanno già capito bene o male come orientarsi sessualmente, sanno che c'è l'opzione, cioè nessuno dei ragazzi di oggi ti dirà per sicurezza guarda io sono eterosessuale. C'è un rapporto diverso con i genitori, sicuramente, però il bullismo, l'omofobia sono ancora concetti estremamente presenti. Se voi mi fate delle serie televisive o dei film in cui magicamente il ragazzetto o la ragazzina omosessuale viene improvvisamente accettata, amore, tutto bello, che bello, mostrate una fetta di realtà che man mano diventa la maggioranza, per fortuna, ma non è ancora totalmente così. Perché come dicevi giustamente tu, la realtà di un posto non è la realtà di un'altra. Quindi magari anche facendo una divisione in Italia, in una città come Bologna da cui noi registriamo, l'omosessuale, l'appartenente al gruppo LGBTQI+, ti dice guarda mi piace qualcuno del mio stesso sesso, ti dicono bravo, che cacchio vuoi dalla mia vita, nel senso va bene così. Se tu lo dici in un contesto meridionale, provinciale in generale, io vengo... che mia Roma, anche l'Emilia Romagna, la provincia è ovunque uguale. Non so, io parlo per esperienza, diciamo, io sono di Bari, ho studiato prevalentemente in Puglia e ho assistito a degli scatti di omofobia nei confronti di miei coetanei. E quindi dipende sempre dal contesto a cui tu decidi di approcciarti. E quindi di nuovo eliminare totalmente il trauma anche del coming out, perché per quanto ci troviamo magari a dialogare con una società e con dei genitori più aperti, il coming out è qualcosa di estremamente terrificante. Cioè parlo anch'io che da appartenente alla comunità LGBTQI+, quando ho fatto coming out con mia madre, per quanto sapessi che l'avrebbe presa tranquillamente, che non ci sarebbero state storie a riguardo, ho fatto coming out in un modo sbagliatissimo, cioè prendendola a ridere, e soprattutto praticamente mi sono approcciata a mia mamma con estrema paura, non facendole nemmeno capire quello che provavo. Non ho avuto il trauma del coming out, perché per fortuna ho dei genitori abbastanza svegli, e però c'è stata una paura di base molto forte. E ora come ora questa cosa sta scemando anche nelle rappresentazioni, e soprattutto nel contesto scolastico, ragazzi, come nel contesto una passeggiata per strada. Molte volte per essere scimmiottati basta solo anche avere un orecchio più grande dell'altro, ti scimmiottano ancora. Non è vero che il body shaming è qualcosa che, dato che lo stiamo combattendo sul web, magicamente non esiste più. Anzi, e quindi è anche questo un aspetto che mi fa paura, pensare che venga meno. Cioè il fatto, come dicevi tu, che improvvisamente esiste solamente il bene e il male viene mostrato in maniera netta, cioè del tipo, oh, c'è il bullo cattivo, oppure non c'è il bullo cattivo, siamo tutti bravi. Non è così. È quello che viene poi la demonizzazione dei film degli anni 80, 70 e 60 e ancora prima. Tu demonizzi nel momento stesso che lo giudichi in base a quello che vedi. E tutto questo politically correct, che comunque è politico. È molto politico. È molto politica il politically correct. Fa sì che tu sei convinto che quei valori, quello che ti propongano, sia certamente la cosa migliore. Però non è oggettivamente così. Anzi, il problema di queste serie televisive che tu hai accennato è che sono di fantasia. E chi le vede può pensare anche che sia la realtà. Io penso che il ragionamento di fondo potrebbe anche essere positivo, nel senso, tu mostri questo mondo edulcorato e quindi prospetti che chi vede, a livello educativo, che chi vede questi spettacoli, che assiste a queste serie televisive, poi si comporti di conseguenza. Ma mai e poi mai è andato così. Dovrebbero piuttosto spiegare quello che hanno capito nel V secolo avanti Cristo i greci con la catarsi, cioè al limite devi mostrare al cinema quello che non si può fare, non un mondo finto, perché sennò sembra ancora di più finto e ancora di più lontano dal potersi realizzare. Esattamente, poi come abbiamo sempre detto dall'inizio di questo blog, anche durante la prima stagione che trovate su Spreaker, il cinema è prima di tutto lo specchio della società, e su questo siamo d'accordo, di ogni tipo di società. Quindi ovviamente se tu prendi un film, non so, giapponese, Ozu ti rappresenterà un tipo di realtà, o Sion Sono adesso se parliamo di registi contemporanei. Se andiamo in Russia, Sokurov ti dirà un tipo di realtà che è diversa da quella italiana e così via. E noi purtroppo abbiamo il vezzo di paragonarci e di far confronti solo col cinema americano, perché è quello che ha l'egemonia più grande. Però non esiste solo quello, la realtà americana, cioè non è la solita cazzata degli alieni che invadono solamente l'America. New York. Solo New York, è vero? Gli alieni potrebbero arrivare anche qui, e quindi è impossibile, secondo me, ed è, non lo so, utopistico no, però è proprio improbabile creare un unico politically correct che vada bene per ogni società, per ogni cinema, perché il cinema mostra, è lo specchio della società, mostra la società italiana non è la società francese, non è quella spagnola e non è quella americana. Soprattutto l'America sicuramente è arrivata dentro di noi letteralmente più volte, anche nel nostro modo di fare cinema ci ha influenzato, ma come noi italiani, ora parlo del cinema italiano, abbiamo influenzato il far cinema in America. Tutto il cinema realista degli anni 70 americano viene dal neorealismo italiano, ragazzi. L'Oscar è arrivato in Europa perché Vittorio De Sica ha girato Ladri di biciclette e gli Oscar hanno detto, oh cacchio, esiste anche il cinema extraeuropeo, extraamericano, scusate. Quindi è sempre stata un'influenza totale, ma perché? Perché c'era apertura mentale di vedere qualcosa di esterno, mettersi a tavolino, cercare di capire quel qualcosa di esterno, contestualizzarlo magari e premiarlo se ben fatto. C'è anche la stessa I dannati di Varsavia di metà del 54, mi pare, che ha vinto l'Oscar per miglior film straniero, un film polacco che mostra i lati umani e disumani sia del versante polacco che del versante nazista. Perché ha avuto il successo che ha avuto? La stessa Schindler List o Il pianista, se parliamo di film che si affacciano al contesto nazista, che è uno dei contesti più abusati nel cinema. Insieme al Vietnam. Esatto, insieme al Vietnam. anche lo stesso Apocalypse Now ci fa vedere le due facciate della situazione e non prende le parti di nessuno, perché in un contesto anche di guerra non ci sarà mai il bene o il male. Gli stessi americani che vengono dichiarati gli eroi di guerra della Seconda Guerra Mondiale le hanno fatte di cavolate, e soprattutto non è che hanno salvato l'Europa perché sono buoni di cuore, semplicemente perché c'erano degli interessi economici in ballo, come poi abbiamo visto con la divisione della Germania e con la divisione dell'Europa in generale. Perché sarebbe stato troppo difficile, oh mio Dio, guarda qua, la Russia mo ci conquista tutti e quindi tutto il versante europeo diventa comunista, mai sia, interveniamo. E lo stesso vale per il cinema non può essere politically correct, non può essere di parte, perché ogni parte è differente, ogni parte ha bisogno di essere spiegata. E a me sembra un concetto estremamente banale in realtà, però a quanto pare non è più così. E col tempo ci troveremo sempre di più ad avere difficoltà a farci capire, perché chiaramente il fruitore, l'uditore che noi vogliamo, io, la Sabri, ma in generale tutti quelli che credono nella comunicazione, non si aspettano anche un ritorno, si dice no, feedback, sì. Un ritorno. Cosa ne pensi di quello che abbiamo detto? Hai apprezzato? Cos'hai da ridire? Cos'hai da dire? Cos'hai da portare in più? Dove hai trovato nei nostri pensieri qualcosa che occorre riorganizzare in un modo diverso? Questo sempre di più diventerà difficile se non si pratica una terapia d'urto nel contro questo nulla che avanza e che fa in maniera molto evidente, fa sì che siamo in un contesto, secondo me, non di metastasi sociale, però molto vicino a questo. E chi è che può fare qualcosa in questo momento? Beh, in primo luogo quelli che sono più vicini ai ragazzi. Io adesso parlo in vece mia, parlo di quello che non è un lavoro ma che è un'occasione. Il professore non lavora, il prof ha davanti a sé dei ragazzi e deve di ciascuno trovare gli elementi giusti da portare avanti, ascoltando, perché loro sono i ragazzi, perché poi di questo si tratta, di generazioni molto giovani, perché chi è preda del politically correct utilizzato a questi livelli massicci e fortemente di propaganda di un pensiero, si fa così e va bene, non si fa così non va bene. Allora io arrivo, come dovrebbe fare, diciamo, un prof, piuttosto che comunque un pedagogo o qualcuno che ha a che fare con i ragazzi, e dire: ma siamo poi sicuri che tutto quello che adesso pare che sia giusto sia realmente giusto? Perché non dimentichiamoci che tutte quante le volte che il popolo ha seguito un'informazione unica si è andati incontro al baratro. Il baratro non è mi hanno tacciato e capito di razzismo su TikTok o altro. Il baratro vuol dire disastro politico, economico, sociale, conflitti, tutto totale. Quindi il ragazzo che descrive, aprendo bocca, con molta precisione quello che sta accadendo, per capire quello che accade non devi chiedere a un quarantenne o un cinquantenne, ma chi è in corso d'opera, chi è in via di definizione per diventare un uomo adulto. E chi meglio di un ragazzo può farti capire come stanno le cose? Quando ad esempio ecco che succede che uno ha un dubbio, prendilo, hai capito, questo nervo così acceso, attivo, scoperto, e fagli capire che quel dubbio che hai è magico. Quel pensare: ma è mai possibile che tutti la pensino allo stesso modo e che questo vuol dire a priori che vada bene? Non è mai e poi mai andato così, mai e poi mai. E quindi quando mi trovo davanti a un film, quando mi trovo davanti a una poesia, a un romanzo, In primo luogo, io voglio essere innocente, o meglio, non voglio avere degli schemi precedenti per definire, non voglio giudicare. Mi è arrivato quello che sto leggendo? Non mi arriva quello che legge, fondamentale. Ci può essere qualsiasi critico cinematografico, qualsiasi critico musicale o letterario che ti può raccontare meraviglie di una roba che non ti arriva. Ma se non ti arriva, non ti arriverà mai. E tu non devi fare finta che ti interessi quello che stai vedendo. Se non ti piace un film, lo devi dire, ma non devi però dire non mi piace perché non piace agli altri. Non mi piace perché tutti hanno detto questo film è da bruciare sul rogo. Perché sennò si torna al 1600 a Campo dei Fiori con Giordano Bruno. E arrivare a questa forma di distorsione è quantomeno grave, perché poi non c'è il punto di ritorno, si è arrivati al punto del non ritorno, non si torna più indietro. Io vorrei sempre di più una società che abbia a che fare con la Venezia del 400 e del 500. E cari ascoltatori direte, ma perché adesso sto qua parla di quello? Perché la libertà di pensiero dei veneziani di terra e di mare in quel momento era strepitosa. Quando gli dicevano al doge, beh, ma tu commerci con i musulmani, con gli ebrei, com'è possibile? Lui rispondeva molto semplicemente, pagano. Che uno può dire, vabbè, questo qua non è aspetto utilitaristico. Ah certo, però intanto attraverso il commercio c'era la comunicazione, il dialogo, e infatti chi doveva scappare dalla Santa Inquisizione andava a rintanarsi a Venezia, che non dimentichiamoci che Venezia, durante il carnevale, quando tu incontravi gente con la maschera, non avevi mica la certezza che quello che incontravi era del sesso opposto. Non c'era questa certezza. C'era un'occasione, c'era una possibilità. Una delle commedie più importanti e fondamentali che ha a che fare con la libertà di pensiero, di costumi, che poi è una cosa che chiaramente va di comune accordo, è la veneziana o venexiana, dipende da come lo vuoi tradurre, che è un'opera che è stata ritrovata durante il periodo fascista, autore anonimo, comunque da inizio del 500, dove si racconta di un triangolo amoroso tra due donne borghesi e un bergamasco, che fa un po' ridere, però nel resto il bergamasco che va a Venezia e che dice una grande verità. Io mi affido soltanto a un Dio. Ed è il Dio della scoperta, è il Dio della conoscenza. Quello che non so è molto più interessante di quello che so, perché io non sono un dogmatico. E quando mi parlano di politically correct, è la stessa cosa di dire quella volta che i neri sono tutti cattivi. È la stessa identica cosa. Non si fa controinformazione, non si fa un tipo di pedagogia dicendo politically correct, questa cosa qua non va bene, cancelliamola. Così si fa un'altra forma di demistificazione che poi ha a che fare con la moda. E chi ti dice che a un certo punto, dopo che abbiamo abbattuto tutte queste cosiddette statue che hanno a che fare con i cliché degli uomini di colore e di altre situazioni che adesso vengono bollate come non si può più fare in questo contesto, che però, aspetta, che contesto è? Stiamo parlando di Italia, Francia, Spagna, parliamo sempre degli Stati Uniti, che esaltando il fatto di essere una sorta di antica Roma all'avventura, cioè di prendere tutte le informazioni che gli interessano dal mondo circostante, che comunque loro hanno colonizzato esportando democrazie culturali, o dicono noi vi proponiamo questa cosa qua, voi che noi abbiamo per tanto tempo insistito perché voi poteste diventare nel modo più assoluto portati a una forza di anglofilia mostruosa, accetterete, perché vi abbiamo già educato ad accettare a prescindere i prodotti che vengono dall'America come giusti. E quindi noi ci troviamo col fatto che si può dire, ce lo racconto gli americani, deve essere per forza così, ma non è così, perché tutto cambia a seconda di quello che sta accadendo e di quello che accadrà. E se noi dimentichiamo questa cosa, se diventiamo così idioti, cioè idioti proprio a livello dostoevskiano, hai capito? Come personaggio di Idiota di Dostoevsky, ovvero così capaci di verginità di pensiero, di dire che il tempo presente è l'unico tempo che c'è, e di accettare tutto quello che ci raccontano del passato senza toccarlo con mano, senza andare a informarci, senza guardare se non Google, scrivere una cosa, il primo sito, vabbè dai, va bene quello che abbiamo visto, senza la ricerca, ecco che ci troviamo come degli alberi senza radici. E alla prima tempesta che passa, noi non ci siamo proprio più. Esattamente. E concludo la puntata citando un altro film di Alejandro Amenábar dal titolo Agorà, incentrato sulla figura di Ipazia d'Alessandria. Nel finale del film, quando il santo padre Cirillo decide di condannare a morte Ipazia, i suoi scolari le dicono: l'unico modo che hai per evitare la gogna è non insegnare più, perché una donna non poteva insegnare, e soprattutto convertirti alla religione cattolica. E la risposta di Ipazia è molto schietta e molto diretta per quello che riguarda il processo di dogmatizzazione. Tu mi imponi una religione in cui il dubbio non è concesso. Io, in quanto filosofa, in quanto essere umana, devo dubitare continuamente. E lì ovviamente poi c'è la condanna a morte. E Socratica. Sì, e questo è quello che vorrei che tornassimo a fare tutti quanti, a dubitare, a porci delle domande. Quindi è l'augurio con cui lascio e chiudo questa puntata. Ragazzi, torniamo a dubitare. Ringrazio di nuovo Gianmarco. Thank you, grazie. E con questo vi do appuntamento alla prossima puntata.